piccole spalline mie, docile grande bambino, chi mai si accorgerà di te, della tua noia del mattino, della tua gioia per i motori, del poco tempo che c'è in te. Alessandro, non serve quello che ti dico, alza le spalle da non sbuffare dal mio amore o di un amico. Alessandro, sei grande ormai, con tutta quella forza dentro, non rassegnarti mai per non avercela con chi so io, perché il sorriso non sia un addio mai. Alessandro, è sempre stata una partita con un avversario che non ha stima, con il canestro della vita. Ale, sei grande sai, con quella forza dentro, non rassegnarti mai per non avercela con chi so io, che il tuo sorriso non sia un addio.